G. Ascolta e indica la parola che senti. 1. È la lettera H. 2. Sono qui per caso. 3. Guida una piccola vecchia macchina. 4. Ha una ciocca di capelli rossi. 5. Ho finito la lacca per capelli.